abiti fino a terra. E ancora forse arrivando al prato del giardino e oltre al confine rosso segnato dal roseto già in fiore, e assaporarne l'odore col sorriso stampato sul viso, mentre gli altri affondano nel fumo dei loro discorsi. Sarebbe bello scivolare via restando immobile sulla sedia, tra le mani le carpe tenendo, sistemando gli assi vicini, per provare nel prossimo giro a pescare un jolly e sollevarsi di scatto e invadere il prato. Neanche noi altri imprigionati di abitudine e fumo, in questo fumo.